E ben ritrovati come sempre ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono come sempre il vostro Jean-Luc. Con stasera iniziano le puntate con ospiti in studio, oggi è il turno di una band viareggina rappresentata da uno dei membri, a cui do subito la parola per le presentazioni. Ciao a tutti, sono Fabio Pansini, batterista dei Silent Field. Una puntata che inizia con una prima parte dedicata ad alcune grandi band hard blues degli anni 70. Abbiamo iniziato con i Humble Pie, band guidata da Stevie Marriott e Peter Frampton, che dal disco è Safe as Yesterday's ci ha fatto sentire il brano National Bone Boogie. Band non tanto conosciuta nel nostro paese, ma autrice di un sound grintoso e maturo. Che ne pensi, Fabio? Beh, sì, gli Humble Pie sono stati indubbiamente una super band. Non sarebbe potuto essere altrimenti, visto che due degli elementi erano Steve Marriott, appunto, che in precedenza è stato cantante, chitarrista, nonché compositore dei Small Faces, e Peter Frampton, che era il cantante chitarrista dei The Heard. Insomma, due grandi rock band degli anni 60. Oddio, consiglio, ecco, per chi non li avesse mai sentiti, di andare a vedere qualche video live, perché erano veramente devastanti dal vivo rispetto a molte altre band di quel periodo. Certamente. La storia dei Silent Field è molto lunga e affonda le sue radici nel 1994. Come vi siete formati e da cosa è scaturito questo nome? Sì, allora, il gruppo è nato in Versilia, appunto, nel 94, da dei ragazzi compagni di liceo appassionati di musica punk rock, che hanno deciso di dare inizio a questo progetto trovandosi a provare nel garage di uno dei vecchi membri della band. Poi da lì a poco è entrato Lorenzo, che è l'attuale cantante chitarrista, e col susseguirsi degli anni ci sono stati vari cambi di formazione fino ad arrivare nel 2005 alla line-up stabile che è quella attuale. Diciamo che Lorenzo è l'unico membro superstite della formazione originale. Mentre il nome Silent Field nasce dal vecchio bassista Fabrizio, che vide appunto la scritta Silent Field su una scatola di mangime proprio in quel garage dove provavano, e ha pensato che suonasse bene come nome per la band. Poi si sono resi conto che il significato si sposava ottimamente con l'attitudine del gruppo, perché Silent Field significa semina e nutri, e così abbiamo nutrito e seminato, si spera, in tutti questi anni, disco dopo disco, la nostra passione. Proseguiamo il nostro viaggio nel rock degli anni 70 con i Mountain. Il quartetto con Leslie West e Felix Pappalardi esce nel 1970 con il disco Climbing, da cui ci sentiamo Stem from the Imaginary Western. Darkness at the summer. Paragonati spesso ai Cream, sono rimasti però un gruppo di culto nonostante la band abbia suonato anche al Festival di Woodstock. Che ne dici? Beh sì, i Mountain sono stati forse tra i primi a sperimentare i suoni più vicino all'heavy metal. E certo. Questo forse è il motivo per cui non sono riusciti a fare, diciamo, super botto all'epoca, a differenza di altre band. E tra l'altro mi ricordo che quando avevo 12 anni mio padre mi regalò il disco di Woodstock e rimasi folgorato dall'esibizione dei Mountain, soprattutto per il brano Blood of the Sun, che ritengo sia una canzone meravigliosa, quindi ho veramente un bel ricordo. Vostre esibizioni, so che in questi anni avete avuto modo di suonare anche all'estero, in altri palchi, per cui vi chiedo come sono state queste esperienze e come il pubblico ha reagito ai live. Sì, oddio, le esperienze all'estero sono state molto belle, divertenti. Abbiamo girato tutta la Germania più volte, poi siamo stati anche in Danimarca, Belgio, Olanda, Austria, Slovenia. La cosa che ci ha colpito di più è stata la partecipazione e l'interesse da parte del pubblico, questo soprattutto in Germania. Chissà perché. Addirittura ad alcuni concerti i ragazzi che venivano a vederci compravano il CD prima ancora di sentirci suonare dal vivo, giusto per l'interesse, no? Di conoscere la band nuova, insomma, cosa molto molto rara qui in Italia. E poi vabbè, anche l'accoglienza da parte dei locali che ci hanno ospitato è stata ottima, sempre molto gentili, disponibili, non ci hanno fatto mancare nulla, insomma. Beh, sono state indubbiamente delle esperienze bellissime e spero che si ripetano al più presto. Speriamo, dai. Questa prima parte finisce con i Free, la band di Paul Rodgers e Simon Kirk, dal disco Free Live del 1972, con una versione vibrante del brano Mr. Big. Get out, come back again. I don't.